America 24 di Mario Platero. Right behind me, the parent company of Lehman Brothers filing for bankruptcy as the subsidiaries basically wind down or Lehman tries to sell them off. In addition, huge, huge news beyond Lehman Brothers. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La voce che avete ascoltato è quella che dava in diretta televisiva l'annuncio del fallimento di Lehman Brothers. Lehman Brothers in bancarotta era il 15 di settembre del 2008. E dunque a 2 anni dalla crisi, dove ci troviamo? Abbiamo visto cosa è successo domenica a Basilea. I governatori delle banche centrali hanno deciso di aumentare i rapporti di capitali delle banche. Vi ho parlato a lungo in passato dell'iniziativa di Barack Obama. Ai primi di ottobre ci sarà la riunione del Fondo Monetario Internazionale a Washington, perché a questo punto si tratta di armonizzare tutto sul piano internazionale. Dopodiché l'appuntamento successivo. In Corea del Sud si terrà il G20 a livello di capi di Stato e di governo e saranno i 20 grandi a ratificare il nuovo regime di regole per le banche. Increase protection against unexpected losses. So the idea is that they have a lot of risk on their books. Obviously they're banks, they lend, it's risky. In questo caso si parlava di Basilea, le reazioni dei gruppi bancari americani, Citigroup relativamente soddisfatta, il direttore finanziario John Gerspat è molto contento, si trova a suo agio con gli obiettivi e dice gli accordi di Basilea rispondono a importanti domande e cominciano a creare le certezze necessarie. Ora che le regole sono più chiare, le banche a capitalizzazione maggiore come Goldman Sachs, JP Morgan Chase, US Bancorp probabilmente aumenteranno i dividendi e ricompreranno le azioni restituendo soldi agli investitori. Vero? Beh sì, in effetti Bank of America, Morgan Stanley sulla carta dicono siamo contenti, però il Wall Street Journal fa un'analisi leggermente diversa e scrive queste e altre compagnie potrebbero affrontare nuovi limiti sulla loro capacità di pagare dividendi agli azionisti. Nel frattempo il mercato ha approvato un po' tutti i titoli bancari, sono aumentati nel giorno dell'annuncio JP Morgan Chase più 3,5%, Bank of America 2,9%, Goldman Sachs più 2,7%. E allora pensando in chiave futura e dunque al G20, vediamo quali erano gli elementi chiave della riforma finanziaria USA. Intanto il testo di legge approvato in America limita le possibilità delle banche di scommettere su attività rischiose con fondi propri, di effettuare trading su prodotti derivati, quindi si cerca di limitare il rischio, si cerca di rivedere un po' le regole del mercato del credito, delle carte di credito, viene dunque istituito una nuova agenzia per la tutela dei consumatori, si dà al governo potere nuovo per ridimensionare o chiudere società bancarie che sono a rischio di fallimento e così via. Direi che una delle più interessanti è proprio quella della nuova agenzia per i consumatori, perché se da una parte intuitivamente sembra una novità molto interessante, dall'altra se non sarà gestita bene il pericolo è che vada a tarpare le ali dei consumatori e delle possibilità delle banche di erogare credito al consumo, che potrebbe essere così alquanto rischioso nel momento in cui l'economia non sta decollando. Uno degli elementi di dibattito riguarda la nomina. Nei prossimi giorni, stay tuned, state sintonizzati, perché Barack Obama annuncerà quasi certamente la nomina di Elizabeth Warren alla guida di questa agenzia. Nomina controversa, ve ne avevo parlato in passato, il sistema bancario non ama Elizabeth Warren perché ritiene che abbia un'idea un po' troppo ideologica e calvinista di quello che dovrà fare questa agenzia e tutto sta non tanto nelle regole ma nel come queste regole saranno applicate. Secretary Geithner never wavered in his support. The Consumer Financial Protection Agency. Elizabeth Warren è un professore di legge alla Harvard Law School, è del 49, è nata in Oklahoma, laureata alla Rutgers University, molto amica di Barack Obama, lo ha detto lo stesso presidente durante la conferenza stampa di qualche giorno fa. Dunque la sua nomina appare a questo punto quasi certa. Ma torniamo a Lehman Brothers. Vi avevo detto in apertura che oggi è l'anniversario della dichiarazione di fallimento, un annuncio catastrofico. I mercati sono crollati, si è trattato di uno dei più grandi fallimenti della storia americana e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. I mercati del credito si sono paralizzati. Abbiamo con noi in linea Vittorio Pignatti Morano, un italiano che a Londra era vice chairman della banca proprio in quei giorni. Buongiorno Pignatti Morano. Che sensazioni ha a 2 anni da quella giornata? Tanto la sensazione che siano passati 10 anni e non 2, perché le cose sono andate veloci all'inizio, ma è stata tutta una situazione in salita, dal disastro più totale allo spiraglio di luce, e oggi, che se ne dica, le cose stanno andando nella direzione di crescita di nuovo. Lei è un italiano che lavorava a Londra per Lehman Brothers. Uno come lei, in quel giorno, in un momento così, cosa sente? Il mondo che le casca addosso? Sì, devo dire che è stato un crescendo prima, quindi non è stato una mattina mi sono svegliato, perché la situazione non è che si fosse precipitata da un punto di vista bilancistico in una settimana, non è che fosse cambiato molto. La grande sorpresa dopo 20 anni in un'istituzione che aveva fatto grandi cose e tutto, è di trovarsi senza un'alternativa per continuare a lavorare, e come non si poteva separare il buono dal cattivo, non si poteva fare nulla perché si era lasciato tutto all'ultimo minuto, e quindi la nave è affondata come il Titanic in un unico, no? Spezzandosi in vari tronchi, però a fondo è andata. Ecco, però in questo naufragio mi sembra che proprio lei, con un gruppo di banchieri con cui lavorava, è riuscito a rilevare una delle divisioni, proprio quella per cui rilevava, del private equity, e adesso ha cominciato una nuova avventura in proprio, mi sembra. Ecco, com'è andata? Noi abbiamo rilevato dal liquidatore in tempi abbastanza brevi, perché avevamo raggiunto un'intesa soli 3 mesi dopo il fallimento, per comprare le società di gestione dei fondi che già gestivamo come manager Lehman, che avevano una storia ventennale, per cui abbiamo continuato con gli investitori, ci hanno dato la fiducia, abbiamo comprato la SGR che gestiva i fondi dal liquidatore e siamo ripartiti per conto nostro con un nuovo nome, Trilantic, e gestiamo circa 4 miliardi di dollari in investimenti. Cosa avete in portafoglio, fra l'altro? Recentemente abbiamo annunciato la vendita della più grossa società di tonno in scatola d'Europa, che si chiama MW Brands, ex Heinz, che in Italia ha Mare Blu, in Francia Petit Navire, in Inghilterra John West. A quanto l'avete venduta? Circa 680 milioni di euro a un gruppo thailandese. Vabbè, quindi ci dà due spaccati nel post Lehman, nel post crisi. Uno, che bene o male le cose si sono un po' rimesse in moto, e l'altro, che alla fine è l'Oriente che tira. Sicuramente è l'Oriente che tira. Senta, un'altra curiosità, ho sentito che proprio in questi giorni si sta parlando di un'asta di oggetti di Lehman, è vero? Anch'io sul web mi hanno chiamato molti ex colleghi per dirmi che c'è un quadro che era nel mio ufficio, e poi ho rivisto un po' 20 anni di vita, ma anche memorabilia, c'è anche la scritta Lehman Brothers che c'era in entrata, che non so a chi potrà interessare, in metallo, è lunga 1,5 metri, e vendono il 29 di settembre all'asta da Christie's a South Kensington. Di tutto. Lei andrà a comprare qualcosa oppure preferisce dimenticare tutto? No, io non penso di dimenticare niente, ma non ho nemmeno bisogno di tirarmi le memorabilie dell'ufficio in casa, per cui ho fatto un po' di chiamate per suggerire a ex colleghi se si vogliono ricomprare i quadri che avevano nell'ufficio che ho identificato, e quasi tutti mi dicono che ormai sono passati al contemporaneo, non gli interessa più. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. È uscito il nuovo album dei Walkmen, gruppo indie newyorkese nato una decina d'anni fa e però ormai di fama mondiale. L'album è intitolato Lisbon, gruppo Walkmen, la canzone dall'album Stranded, un po' bloccati come ci troviamo oggi sui mercati. The world.